sul 60. Perché sono 4,50, giusto? Eh sì. Ok, sì. No, pensavo che con l'altra avevo... avessi provato l'MD100. Va bene. Comunque, ma gli hai spiegato a Fabrizio la questione che ti fa l'MD100? No. Sto usando il 4,50 adesso. Spiegagli il problema che ti fa, magari ti sa dire qualcosa. Dipende come lo muovo praticamente, Fabri. A volte sembra che ci sia qualche filo che fa un falso contatto con un altro filo e non si capisce la radio praticamente. Allora tolgo quello, metto un altro MC60 che ce l'ho cablato per quella radio, uso un pochino quello, poi lo rimetto, l'MD100 e funziona bene. Ma a volte dipende come lo sposto anche, non so cosa dirti, molte volte cioè non so se lo fa da subito, quel problema lì non l'ho riscontrato, non lo so se lo fa da freddo o da caldo, ma aspetta, te lo posso anche far sentire, però magari non lo fa adesso, aspetta. Sì, ciao, buonasera Fabrizio. È quello che stavo pensando io. Non mi sembrava questo non il cavetto. Diceva che quando scalda lì sembra che vada tipo in protezione. Cioè il sintomo è quello, è una sorta tipo che va in protezione, poi quando raffredda lo riattacca e inizia a funzionare di nuovo. Ma infatti è quello che volevo. Sono entrato con questa cosa qua, visto che c'eri tu e te lo faceva sentire. Perché non mi sembra, il cavetto sente proprio il colpo, se tu il cavetto lo prendi e lo muovi, dà proprio l'input. Quella lì non è mancanza di input, quella è proprio roba elettrica. Mi segui? Perché il suo adesso lo attacco. Vai Claudia. No, non lo attacco perché, per dire la verità, in quella radio lì in FM a Fabrizio io lo sento malissimo, molto amplificato, e non riesco a capirti bene in quella radio, capito Fabri? Abbassa l'amplificazione, ho registrato il break un attimino, abbassa l'amplificazione e fa. No, prova un attimino a abbassare l'amplificazione lì, è giusto un po', tu del processore, cosa stai utilizzando? Come va adesso, un po' meglio? Sì, adesso un po' meglio, aspetta che ti ascolto con l'altra, ho registrato il break un attimino. Sì, adesso sia la grande, anche poco fa arrivavo in saturazione, adesso sia la grande, non so che radio stai utilizzando, però adesso sia la grande. Claudia, cosa dici? Aspetta, prova Fabri. Guarda adesso, ho tolto il processore, sto parlando piano, non voglio toccare il mic grinder. Ok, adesso sei la grande anche tu. Datemi un secondo, c'è un break in pausa, fatto entrare, mi devo spostare 2 secondi dalla radio, poi te ne parlo. Questo è l'MD100, Fabri. Ok, va bene, avanti il break. Buonasera a tutti, da questa parte Antonio. Ciao Antonio, ben sentito. Cappa, ben sentiti anche a voi. Allevo un po' l'amplificazione, se ci sei puoi. Ok. Come mi copri Fabri a me di radio? A te benissimo, senza problemi. Sto utilizzando... Beh, io sto utilizzando un 737. Un 737 con... un microfono, con uno Shure SM7DB. Hola. Da un sistema di FI SSB e va bene così. Vai Claudietto, invece se riesco a rilanciarti adesso, vai. Eia, no, Fabri, era un buon amplificato poco fa, a me già piace, però era troppo. Quando in FM stacca il processore che va molto meglio, senza toccare il mic game. Poi quando va in AM inserisci il processore. Ciao Anto, vieni avanti. K, guardate a vedere se adesso va meglio. Sì, era grande. K, ho alzato un pochettino il microfono, perché in AM bisogna abbassarlo. Ah, si è dovuto l'usci, già va bene, vai Fabri. Sì, adesso va bene, perché non riuscivo a ascoltare, solo devo sollevare il volume e non faceva. Gabi, anche tu la radio è buona, la tua è ottima, a te Gabi. Sì. Niente, perché a me l'altra volta mi ha detto che poteva essere il cavetto, però non mi sembra essere più una questione elettronica. Dai, qualche, come hai detto tu, qualche condensatore, qualcosa che è andato. Non so se possa dipendere anche da qualche rientro del RF che gli abbia fatto qualcosa. A me mi aveva creato problemi il G60. Poi quello lì, se non sbaglio, ha una sorta di equalizzazione, una sorta di parametri che puoi regolare quei tre tastini. Non vorrei che ci sia anche qualcosa magari lì di ossidato o qualcosa di qualche problema in quella scheda. Cosa c'è, una schedina dentro quel microfono sotto, oppure va tutto alla scheda madre? Non so se ha due schede separate o una scheda madre dove va a agganciare quella sorta di equalizzatore. Boh, mi sembra che tutt'uno dovrebbe essere, però non mi ricordo mai, io quello l'ho disattivata, l'avevo scollegato qualche cavo, se non sbaglio direttamente dallo spinotto si può fare, non vorrei sbagliare, non me lo ricordo, l'ho fatto appena comprato, che era una rottura di stato, se non mi ricordo cosa avevo fatto, ma io c'ho una vita alle mie vicende. Quindi mi ricordo che avevo fatto questo, però poi non mi ricordo cosa avevo scollegato, mi ricordo che avevo scollegato un cavetto, ma non me ne ricordo sinceramente. Eccomi, sono qua. Come va questo microfono, Fabri? Adesso stai andando bene, se tu riesci a chiacchierare senza toccare niente il cavo, vediamo cosa succede usandolo. Ok. No, così va bene, sono sempre nella sua posizione, circa 20 cm dal mic. Questa è la radio che abbiamo settato con Gavino per la 27. Vediamo un po' come si comporta. E l'importante è che non tocchi il capo di dietro, ti schiacci solo il dare, quando lo fa, io sai quando fa questa cosa qua, ci vorrebbe, fammi ricordarsene ancora, o l'ho finito, forse dovrò ricomprare, non me lo ricordo, dovrebbe il ghiaccio, la bomboletta di ghiaccio spray, e va a raffreddare il punto dove, per capire, potrebbe essere, tante cose possono essere. Bene, va bene. Ciao Antonio, scusami, però sono dovuto andare via per fare una cosa, che qua in campagna esistono anche i pozzi, che manca l'acqua, quindi sono dovuto uscire per avviare il pozzo per fare il riempimento della cisterna. Ok. Lo capisco, non ti preoccupare, già, stavo ascoltando il QSO. Perfetto, vai Claudio. Eia. Ah, non te l'hai fatto la galleggiante come c'ho io? Il mio si carica automaticamente la cisterna. Quando si abbassa il livello parte il pozzo e la riempi. Sì, non è che non l'ho fatto, l'ho tolto addirittura, perché quello è nato con i galleggianti, con le sondine, con tutto. L'ho tolto io perché... la bolletta costa e quando il pozzo si mette a ora di punta a riempire la cisterna vanno via dei quattrini, mentre invece se lo fa di notte ne vanno un po' meno dei quattrini, capisci? Ne vanno via lo stesso, però un po' meno. Ah, l'hai fatto, sì, effettivamente è così. E vabbè, quello quando è stato fatto l'impianto è stato fatto così e quindi l'aveva fatto Dettori e quindi è rimasto sempre così. Quando è 2 anni fa mi pare si era bloccato il caleggiante e non va via Mieva, la cisterna era vuota e quindi l'ha rimesso nuovo. E vabbè, tutti esci fuori e fai l'operazione. Io ci capite già di notte con cosa farò, fammi mangiare le cinghiali, il pozzo è giù, da me è giù, è lontano, sono almeno una cinquantina di metri di tubo per salire su, capito? Quindi è un casino, se fosse stato vicino si poteva fare, ma così ho preferito lasciare tutto così com'è. Avanti Gavi, poi vai per Fabrizio. Sì. Sì, io me l'ho riattivato il pozzo mio, eh. Io l'ho riattivato. Avevo la pompa, non so se te l'ho fatta vedere, la pompa sommersa in garage. Sono stato a giugno, bugia, luglio è mancata qua in queste zone quasi una settimana l'acqua, eh. Una settimana, stavamo facendo lavori. Sono stato due giorni senza acqua, allora ho detto chissà se funziona, ho fatto il lavoro che hai fatto tu al contrario, in pratica l'ho buttata giù, sono andato a comprarmi il tubo, meno male qua il pozzo è l'acqua ce l'ho a 30 metri e l'ho riattivato, ho rifatto tutto autoclave e tutto serbatoio, e ho preso un serbatoio da 1000, un serbatoio piccolino da 1000, con l'autoclave con e tutto. È una sorta di ho fatto la commutazione da Abano a pozzo quando mi serve, quindi ho speso anche qualcosina per comprarmi i filtri perché l'acqua qua è calcarea, fa schifo, eh? Anzi non calcarea, bugia, è salmastra, quindi ho dovuto comprare anche i filtri, ci ho pagato più i vetri dell'autoclave. Comunque adesso ce l'ho di nuovo messo in sesto e niente, me l'ho dovuto riattivare anche perché io ho anche la linea del Coghina, spero che sia fango e niente, vai Fabrizio. Ho capito. No, invece io qua devo farlo, anche mi organizzo un serbatoio da 200-300 litri, voglio mettere perché sta mancando l'acqua spesso e io ho la possibilità di metterlo, che ho il posto, lo posso mettere, anche se sono in condominio, quindi sto pensando di metterlo giusto per quando la mattina ti svegli e ti vuoi fare lavare la faccia, fare lavare i denti e sciacquarti un attimino, perché sta capitando spesso la mattina che non c'è acqua. Ma razionano, eh? Razionano, stanno facendo, a me mi ha spiegato uno, dai, un professionista da Banoa, che quando nei bacini c'è poca riserva idrica, danno prima a esigenza agli ospedali e questa roba qua. Poi io non so che movimenti facciano, cosa combinano comunque. So che a Sassari fanno questa, almeno nelle mie zone non credo che sia la stessa linea, però zona Sassari so che fanno questa, hanno questa prassi qua, che prima quando c'è poca riserva idrica, prima il servizio va alla sanità e a queste e a tutti questi enti. Poi non è che la chiudono, però abbassano i livelli di emissione alla città, non so adesso se ci siano linee separate, come siano combinate, però qua a casa per esempio siamo stati una settimana che cioè non sono stato una settimana, ma sono stato due giorni, però l'acqua di Abbanoa è tornata dopo una settimana a contagocce. Adesso io ce l'avevo già fatto il porto, perché qua tutti ce ne sono due, uno cioè sono andato per certo perché so che quello lì è attivo, l'altro devo sondare ancora, lo sono andato quello più vicino alla casa e ho messo la pompa lì. Quella pompa era ferma 6 anni, perché quando sono entrato io qua, quella pompa l'avevo tirata su e ho detto non uso il pozzo, l'avevo tirata su funzionante e messa in garage, pulita, fatta e messa in garage. Dato l'avviamento funziona, quindi ho detto io poni io su, metti giù e vai di pozzo. Comusi, serbatoio, autoclave e vai, riprenditino. Va bene, se hai la possibilità è sempre meglio una scorta di acqua. Sì Fabri, stanno ripristinando dei tubi, però voi avete l'acqua di, come si chiama, porca miseria, voglio dire in fretta, e non ricordo, forse Claudio è più formato di me, non è il Cugina, c'è l'altra, Cla. Bidiginzo. Allora, praticamente sta succedendo questo. Siccome stanno facendo le nuove condotte, ultimamente hanno bypassato il Coginas e quindi l'acqua a Monte Oro, che è la stazione di pompaggio principale per tutto Sassari, sta servendo il Bidiginzo. Il Bidiginzo non può dare la stessa portata che dal Coginas e quindi automaticamente per non andare fuori dal budget, diciamo, di metri cubi, razionano per Sassari. Però Gavi, stai attento, tu sei servito da Sennori, tu Gavino sei servito dalla stazione pompaggio di Sennori, dove c'è Vitto, per farti capire, dove c'è il ristorante di Vitto, lì c'è un impianto grande che ho gestito anche io con quello di Sorso, con Giuseppe, come si chiama, adesso è andato in pensione anche lui. Lo volevo dire in fretta, non me la metto. Comunque, lì, tu sei servito da lì. Lì l'acqua da lì a Sennori, a quella stazione di pompaggio, l'acqua arriva dalla stazione di pompaggio di Via Milano, quindi Monte Oro, Via Milano, Sennori. Sennori serve sino a Platamona, sino alla rotonda di Platamona, capito? Siccome in questo periodo, ti ripeto, ci sono dei lavori molto particolari che sono stati finanziati dalla Comunità Europea, hanno bypassato il Coginas al 50% per aiutare il Bidiginzo, ma l'acqua sta arrivando a Monte Oro dal Bidiginzo e quindi chiaramente devono razionare assolutamente, perché altrimenti si svuota il bacino, capito? Il bacino, per esattezza la diga che c'è al Bidiginzo, che poi hanno fatto una grande cagata, potevano tenere attivo anche il Cuga e davano una mano. E vabbè, pazienza, avanti Antonio, riprendi cambio. Antonio è sparito, vai Fabri. Cazzo, io lo sai che Fabri, pensavo che l'avessi già fatto quel lavoro. Cazzo, da quando siamo andati a vedere il serbatoio, a prendere tutte le misure, a fare, non l'hai fatto? Io non l'ho fatto, però c'erano altre cose pure, quindi non ce l'ho fatta, devo farlo però devo farlo. Lì ti c'è il posto, quel serbatoio che avevamo visto è perfetto su. Capito, lo metti su, ti fai l'impianto e hai sempre l'acqua, anche se la metti, voglio essere 300 litri, 500 litri, ti aiuta in quel momento in cui non c'è nulla, capito? capito, mi hai detto, capì? Tu sei servito da Sennori, la stazione pompaggio di Sennori. Questa cosa non la sapevo, questa cosa qua non la sapevo. A me, allora questo qui mi ha detto, ma forse intendeva linea di Sassari, mi ha detto una fesseria, Claudio. Ma no, non ti ha detto una fesseria, evidentemente non ti ha aggiunto quello che ti ho aggiunto io. L'acqua arriva sempre, sempre, esclusivamente alla stazione pompaggio di Monte Oro, ok? Sono 1200 litri al secondo che arrivano alla stazione pompaggio di Monte Oro. La stazione pompaggio di Monte Oro li ripartisce tramite chiaramente i fontanieri, quindi tutto il sistema di lavoro, partisce 900 litri per via Milano. Questi 900 litri via Milano vanno partiti, mi pare, se è rimasto sempre uguale, 500 litri al secondo per Sennori. Sennori ripartisce 100 litri al secondo per Sorso e Frazioni, 200 litri per tutte le campagne limitrofe, sino ad arrivare a Platamona. Sì, tutta, diciamo, Sorso e Agro di Sorso. Vabbè, io adesso mi ho tolto un pensiero qua, ma chi, perché quando io sono fuori e da qua a casa c'è mia moglie e mi manca l'acqua, mi diventa un disastro. Tino, se succedeva, fortunatamente ero a casa, perché se mi succedeva che ero fuori, qua scoppiava la rivoluzione, tempo record. Ho fatto questa roba qua. Ho detto, meno male che era molto, dai, che io, essendo a livello del mare, forse sono 20 metri, 20-30 metri sopra il livello del mare, quindi ho l'acqua ce l'ho bassa. E va bene. Più che altro devo mettermi tu ce l'hai già il doppio galleggiante, così è? No, vabbè, io ne ho due, perché uno è di mio padre, uno è mio, ma io ho fatto, come ho tolto i galleggianti per il riempimento automatico, praticamente ho fatto una sorta di troppo pieno, quando so quanto tempo ci impiega a riempirmi la cisterna, e quindi sono mezz'ora, dopo mezz'ora vado, sta iniziando a uscire dal troppo pieno, prendo e spengo. Ma ormai questi calcoli strada facendo te ne impari, perché oggi te ne cade un po', domani te ne cade un altro po' e così via, quindi riesci a quantificare il tempo e quanto ci mette a riempirla, capito? Sì, più che altro a me quello che mi secca è che ho constatato che ho di utili, cioè utile nel senso, ho acqua che va in circolo, subito ne ho 300 litri, gli altri 700 ce lo ferma, tu dirai l'acqua non è che prende e stagna, perché, però rimanendo, cosa ne so, un mese, due mesi, ogni tanto devo ricordarmi di prendere e azionarlo, perché altrimenti quell'acqua lì stagna e mi inguaia il serbatoio. Sì, Fabio, prendilo piccolino, perché secondo me prendere il serbatoio piccolo è meglio, non ti ritrovi acqua stagnante, non ti ritrovi poi con melma dentro il serbatoio e queste cose qua. Io ho fatto male, io dovevo prenderlo più piccolo, così avevo sempre l'acqua in circolo e ciccia. Tanto il galleggiante fa sempre quella corsa, più di quel tanto non te la butta, non te ne fa pescare. Vai Fabri, riprendi. A me mi serve giusto per, infatti sto pensando, un'elettrovalvola con l'autoclave su e con un magneto termico giù e lo aziono solamente per non sbagliare, solo quando non c'è acqua, puff, e lo fate, aziono. Una cosa del genere, devo farlo, però troppe cose, però devo farlo. Adesso vediamo, non in queste lune, perché comunque troppe cose da fare. Adesso devo finire dei lavoretti qua, che sto riparando delle cose, poi vediamo, dai, vediamo. Diciamo che qua non è che manchi così spesso, però ultimamente qualche mattina sta capitando. E allora per evitare quello, tanto solo qualche mattina capita in linea di massima. Forse stanno facendo dei lavori, ho sentito che c'erano... adesso vediamo. Babbo, riprendi, Clark. Sì, sì, Fabri, sono dei lavori di rette che sono stati finanziati dalla comunità europea, devono farli. Come adesso ti, non so se tu c'hai anche l'acqua diretta, ma al monte ci saranno forti disagi, penso la prossima settimana, perché debbono ripristinare e cambiare tutte le pompe lì a Ponte Rosello. Anche lì c'è una stazione di pompaggio, Gavì, che praticamente manda l'acqua in tutta la Buddi Buddi, capito? Fa la parte bassa del monte, compresa anche tutta la Buddi Buddi, sino arrivare all'altro pezzo che poi servita da Sino, e si incrociano praticamente, capito? Ponte Rosello arriva a Sino alla parte finale di via Pinandello, no? Tutte quelle case che ci sono lì, eccetera, e poi serve tutta la linea della Buddi Buddi sino ad arrivare alla rotonda spartitraffico che incrocia la linea di Sorso, che è servita da Signori. Giuseppe Caccacce era il mio collega, o Gavì, che è di Sorso, Giuseppe. Abbiamo fatto un sacco di anni assieme, soprattutto su Senno, Risorso, tutta quella zona lì. Poi io ho mollato la potabilizzazione, sono passato in depurazione e quindi ero all'impianto di Sorso, che poi è consortile perché è Senno Risorso, l'impianto di depurazione. E poi mi hanno spostato a Punta di Gagino, Valle d'Ulia, Santa Maria Covina. Io Sassari l'ho fatto poco, però ho fatto un paio d'anni a Trucco Reale quando sono arrivato da Perfues, dal potabilizzatore di Perfues. Ho fatto un paio di anni a Trucco Reale e poi gestivo anche l'impianto di Montelva. Montelva è lì dopo Fiume Santo, Fabrizio già la conosce, quella zona che serviva tutta la Nurra, insomma, a Bassa Nurra, siamo arrivati a Stentino, ma a Stentino però hanno fatto l'impianto nuovo e quindi sono gestiti a sé. Bei tempi, no, ma penso che Gavì, 500 litri vanno bene, 500 litri vanno benissimo, 500 litri vanno benissimo, abbassa la pigna di aspirazione in modo che tiri, insomma, che ne lasci una cinquantina di litri all'interno, non di più, perché se la lasci stagnare sai cosa succede, che poi ti diventa la vasca interna, ti diventa verde, inizia a fare quella tutto ghisciolimo buzzinoso, e allora devi svuotarla, pulirla, fare o lavoraccio. Quindi 500 litri, ma per Fabrizio vanno bene anche 300 litri. 300 litri vanno benissimo. Bene, signori, qua la signora mi chiama, sono le 8:10, cazzo manca a mamma, ho chiamato stasera. Io vi abbandono, vado a vedermi un TG, è veramente ammirevole questa chiacchierata stasera, almeno la radio hanno scaldato qua, o perlomeno questo accesso di radio, ho visto che sta funzionando bene. Quindi ciao Tino, ciao Gavino, ciao Fabrizio, ciao Antonio e chiunque fosse qua in ascolto sul canale 12 FM. Un abbraccio a tutti e ci aggiorniamo magari alla prossima, ok? A girare allora per Tino, ascolto i finali, poi chiudo. Vado a vedermi un TG, vai T. Andare, va bene, salutami in casa, Clark. Un abbraccio grande, Anna, Laria, niente, dai, buona carica, buon tutto, ogni tanto fate sentire, vai Fabri. Va bene, ora ti posso dire, qua sono, adesso, qui ore sono, tra un po', anch'io, oggi guarda, vado a mangiare presto, non ancora, e poi me ne vado a guardare un po' di televisione, e poi domani mattina devo lavorare. Poi c'è un po' di radio, un po' di effettiotto che devo, stiamo facendo questo cavolo di 130 anni, quella roba lì, per fare un po' di punteggio, dai. E quindi sono qua facendo qualcosa. New York. Tu sai che sono stanco. Stanco. Vabbù, riprenditi. Dai, facciamo riprendere a Gavino. Gavino, sì. Sì, ci sono. Claudio, buona serata. E anche io adesso mollo, che inizio a sistemare qualcosa, tra un po' arriveranno le mie signore, eccole qua, si sentono il cane abbaiando, quindi sono arrivate. E anche io domani mattina presto, domani ci tocca il museo di Zintino, ui, e va bene. C'era... Dai, le prossime, Claudio, buona cena e buon tutto a te e alle tue signore, anche a te e alle tue signore, anzi la signora, perché ormai una ti ha lasciato libero, anche se non sei mai libero, però ti ha lasciato libero. Grazie della chiacchierata, ciao Claudio, buona continuazione. Riprendi ti. Ciao a tutti, grazie, ciao. Ciao Claudio, felicità alla possibile, ciao. Ciao Anto, ti abbiamo chiamato, non hai ripreso, ciao, un abbraccio a tutti. Sono sempre in occhio, sotto. No, ti abbiamo chiamato, solo che non hai risposto, vabbè, non fa niente, ciao Claudio, ciao. Va bene, Fabri, bisogna sbatterci la testa su qualcosa, mi sta fracassando, dai, poi ti pago le ore. Claudio, non ti stavo seguendo l'ultimo passaggio, ero attento leggendo un messaggio perché si trattava di soldi. Di quello che parlavamo, vedi? No, invece avevo l'affittuario che è un po' in ritardo, ma io non ho problemi, già paga sempre. va bene. No, ormai c'è entrato in testa questo accordo, sono toccato a comprare un nuovo, porca miseria, no. Non ce n'è tipo per gatti. Vabbè, c'è una domanda, puoi fare due cose, vai. Non so quante macchine vendono, vai, compri una macchina nuova, poi prenoti un viaggio, ti prendi una settimana di ferie, parti in crociera, come torni vai a ritirarti la macchina nuova. Ascolta, posso andare a nome di qualcun altro? Mi devo andare a nome di Walter, però, eh. Ma mi vedono col macchinone, dico, ah, questo è assurdi. Vai col macchinone, poi e questo di che? No, questo lo uso in campagna per trasportare i massi. Non c'è andare con... non far vedere le cose con caso Walter, così ti trattengo anche a tecca. Lo sai che a proposito... intrattenere, ieri sono uscito, no, qua da alla presa del Torre Ritto a ritirare mio figlio, arrivo quasi alla fine, tap, posto del blocco, oppa là, gli ho detto cosa c'è, buonasera, e dove stai andando lì? E cosa sto andando? Sto andando a ritirare mio figlio che qua sta facendo una rappresentazione qua in palestra d'autorità, sì, e subito ne esce una vigilessa, no? E lei dove sta andando con questa macchina? Ma è la sua? Ho detto no, è di un amico mio, perché? E chi è questo amico? Gli ho detto nome e cognome. Ah, allora già è quella, abbiamo riconosciuto la targa, e lo so, lei li punti. E non è stato arrestato come avevo conosciuto la targa. No, abbiamo visto questo macchinone, poi abbiamo visto la stanza, sembrava lui. E adesso te l'ha fatto un pochettino quel difetto. L'ha fatto, non lo so. Forse perché sta scaldando, io non l'ho mosso per niente il mic, Perfetto, lascialo così, così vediamo. Secondo me come scalda. Ok. Vai Gavì, vai. No. È quello che proprio volevo. Vi stavo dicendo. Il microfono di Tino non aveva ancora dato segni di malessere, però ha dato un piccolo accenno, quindi ti lascialo scaldare un pochino, che secondo me non è il cavetto, abbiamo fatto bene a farlo sentire anche a lui, così ti sa, te lo sa dire meglio di me. Camiseria, qua tocca prendere. Boh, vabbè. Lascialo scaldare un po', ripeto, e poi vediamo cosa succede. Io devo chiedervi il permesso di QRT perché inizio a fare qualcosa. Mi porto avanti, anche se c'è un leggero. che domani si fatica come tutti, quindi si cena leggero, poi scusate, farò un altro pochino di radio, se ci sei, e ci facciamo un'altra chiacchierata, è arrivata una certa ora, vado a fare un po' di riposo. Lo Iuia, va bene, dai, buon proseguo di serata e vi saluto. Ciao Fabrizio, ciao Tino, e ti, dopo se ci sei, ce la riascoltiamo. Buon proseguo di serata e buona cena a tutti. Vai, ti riprendi, buonasera di nuovo. Va bene, siamo qua, dai, vediamo se coincide, così tu fai chiamata, è già sempre acceso anche l'altro. Credo che Fabrizio lo stesso abbia la frequenza in monitor, non so se se lo ricordo o meno, comunque quando vuole entrare siamo lì. Ok, vai Fabrizio. Non mi ricordo nemmeno quando sono nato. Vabbè, ti mando un messaggio dopo se ne hai voglia di entrare, se no già siamo qua. Magari che faccia difficile, perché una volta che mangio domani mi rivolgo, però mandamela così la se me la ricordo, me la segno. Sì, dopo te la mando dopo. Niente, ancora sta funzionando bene. Sì che sta funzionando, ha accennato un attimino, però è grande cosa, un casino, si fa così. Dovrebbe essere anche qualche saldatura fredda. Che la cosa, bisognerebbe ripassare un po' tutte le saldature e riprovarlo. Perché sta andando? Sembra di sì. Aspetta che provo a fare una prova in banda, perché anche in banda a volte faceva un casino nero, capito? Prova. No, non è affatto. Alla M, però devo provare, devo cambiare un po' il processore, un po' il microgame, però già va bene uguale. Ho capito. Comunque sta andando bene questo microfono, a me non mi sembra che abbia qualcosa di particolare. Cosa ne so? Vuol dire che qualche filo, Fabio, vuol dire qualche filo, perché ormai è caldo, adesso è caldo e insomma dovrebbe insomma rifettare, se magari muovendolo, prova a muoverlo, vediamo un po'. Lo sto facendo, vedi? Aspetta. Come hai toccato il cavo, voi? Sì, come ho toccato il cavo, però credo che sia la spirale. Se dammi il cavo che te lo ricablo. Credo che sia. Aspetta. Lo sto toccando con le mani, aspetta, metto il hook, provo a allungarlo. Senti? Sì. Perché cos'è cablato quello lì? Questo è l'originale, nel 1100. MV. Quindi è cablato per lo Yaesu. Ecco, Walter ne deve avere di quei cavetti, lo sai? Vediamo. Credo che sia lo spinotto che entra nella basetta del microfono. Ascolta, te l'ho detto, quello possiamo fare una cosa. Andate a rompere, Walter deve avere di quei di microfoni, ne ha più di uno, anche dei microfoni palmari. Niente, me lo dai e te lo ricavo, dovrei averlo uno di quei spinottini dietro, forse sono quelli piccoli, non me lo ricordo, vabbè, comunque se non li prendo qualcuno, io ce l'ho la pinza per ricablarlo, tanto. Aspetta un attimino. Vedi? ora sto toccando invece il carpetto del gelato. Il carpetto del gelato. Lì c'è l'altro cavetto, potrebbe essere anche, guarda che volendo, non vorrei sbagliare, ma si può collegare anche direttamente, no, non me lo ricordo, dai. Io ce l'ho qua cablato direttamente sulla cosa, come si chiama, la navigato tipo sui due microfoni, uno del 9000 e uno del 101, e sono sullo stesso braccio, quindi mi viene male a smontarne tutto. No, non sta andando. Provare a ricablare, prima di tutto ricablare i cavi, tutti i cavi del microfono e poi provarlo. Questo è il 60, eh? Infatti con questo va. Vedi? Sta andando, sì. Sì, sta andando. Perché ieri questo qua mi ha detto Calvino che si è abbassata molto la radio. Ah, al momento sta andando, dai. Non lo so, vabbè, vediamo un attimo, perché... no, sembra di sì. Al limite ti do il mic completo. Vabbè, dammelo e vediamo di controllare il cablaggio. Quello che posso fare lo ricablo e poi lo riprovo. Va bene. Senti un po', ma domani sei a casa tua madre? Domani sera? No, domani mattina lavoro e no, domani sera non sono da mamma. Se va bene devo fare un favore a un amico, andare a fare delle saldature su un finale. Quindi, credo, se mi chiama. Ah, ok. No, perché se eri lì sarei passato lì, no? No, magari non ci sta andando, poco e niente. Fammela avere in qualche maniera. Vediamo, io me lo metto in macchina, poi già ci sentiamo. Ehi, va bene. Allora, dai, che me ne vado. Voglio fare una prova in SSB, però no, su un bande transoriale e poi vado a mangiare, dai. Ci sentiamo dopo, magari, dopo non credo, però ci sentiamo. Ciao te, buonanotte. Andà bene, ciao Fabri, ciao, buonanotte. Sì, capì, l'ha fatto, sono con 60 ora. Sì. Vedrai che lì c'è da controllare qualcosa. Di lì c'è da controllare qualcosa, sì. Ma non mi sembra roba di cavetto a me. Infatti quando l'ho sentito è entrato, e adesso ne approfitto per ricordargli a fine a farglielo sentire, perché lui magari ti sa dare più delucidazioni di me. Se riesce più a gli fa un controllo più accurato, mi segui, perché finché è cablaggio va bene, però quando si tratta di schede e schedine lui è più afferrato. No, a parte che allora non l'ha fatto, ma l'ha fatto quando ho iniziato a toccare i cavi, quindi credo che sia il cavetto del gelato che quello nel nesso della basetta. Sì, l'abbiamo provato. E allora dai, è già un buon inizio. Va bene, ti preparo qua che stiamo per arrivare. Ehi, va bene, dai, allora ci sentiamo, nel caso più tardi se coincide, dai. Adesso anch'io mi sposto. Va bene, ciao Gavi, ciao. E a dopo. Non so se c'è rimasto Antonio in quel Rix. Nel caso, ciao Antonio, ci sentiamo, dai, mi sto spostando. Prova 1, 2, 3, prova cambio. Ora, blecco, prova 1, 2, 3, prova cambio. Canale 12, golfo della Sinara, Zampi, modulazione. tutta qui per i Putin, Putin criminal.